Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia. Di Dino Pesole. Il mondo ha la possibilità di sconfiggere la povertà, le malattie, l'inquinamento ambientale ed elevare la qualità della vita di ogni essere umano. Questo è l'approccio di fondo che spinse i capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'ONU, riuniti dal 6 all'8 settembre 2000 a New York, nel vertice del millennio, a porre la propria firma in carce alla dichiarazione del millennio. In quell'occasione i leader mondiali definirono una serie di obiettivi ambiziosi per conseguire entro il 2015, da cui presero corpo gli 8 obiettivi di sviluppo del millennio, che affidavano all'ONU un ruolo centrale nella gestione del processo della globalizzazione. Da quel giorno, come sappiamo, il mondo è cambiato. L'11 settembre 2001 ha mutato l'ordine delle priorità e ha deviato sulla guerra al terrorismo molte delle risorse che erano state promesse per la lotta alla povertà e al sottosviluppo, ma anche la centralità delle Nazioni Unite e l'approccio multilaterale per la risoluzione dei problemi internazionali sono stati rimessi in discussione. E così gli obiettivi di sviluppo del millennio hanno subito un preoccupante rallentamento. Ascoltiamo questo passaggio delle conclusioni del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, che nel luglio del 2015 ha presentato il rapporto finale sugli obiettivi di sviluppo del millennio. Il rapporto mette in luce come solo 2 anni prima quasi la metà del mondo in via di sviluppo vivesse in estrema povertà, mentre nel 2015 il numero di persone che vivono in estrema povertà è diminuito di oltre la metà, passando dagli 1,9 miliardi del 1990 agli 836 milioni del 2015. Tuttavia, a fronte dei grandi progressi conseguiti, lacune significative permangono in alcuni paesi e in alcuni ambiti. I conflitti restano la più grande minaccia per lo sviluppo umano, visto che sono i paesi colpiti da conflitti a sperimentare in genere i tassi di povertà più elevati. Anche la disuguaglianza di genere persiste nonostante la maggiore rappresentanza delle donne nei parlamenti e il maggior numero di ragazze che frequentano la scuola. Circa 800 milioni di persone nel mondo vivono ancora in condizioni di estrema povertà e soffrono la fame, mentre le emissioni globali di anidride carbonica sono aumentate di oltre il 50% dal 90 e la scarsità dell'acqua colpisce ora il 40% delle persone in tutto il mondo. Discutiamo questa sera del tema dello sviluppo umano e degli indicatori di benessere con il professor Enrico Giovannini, che è ex ministro del lavoro ed ex presidente dell'Istat, attuale portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile. Il professor Giovannini lo scorso 28 settembre ha presentato alla Camera il primo rapporto dell'Alleanza dal titolo L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera. Allora, quali sono, professore, i punti salienti di questo rapporto? Un anno fa i grandi della Terra hanno riconosciuto che il mondo è su un sentiero di non sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica, sociale e per certi versi istituzionale. Tutti i paesi hanno problemi, in Europa ne discutiamo quotidianamente e finalmente si è capito che lo sviluppo sostenibile non è solo una questione ambientale e quindi i grandi della Terra si sono dati un piano da qui al 2030, in qualche modo definito attraverso 17 grandi obiettivi che vanno dalla povertà all'istruzione, alla lotta alla fame, ma anche a un buon lavoro, alla crescita economica e così via, e 169 sottoobiettivi molto concreti che tutti i paesi del mondo devono cercare di realizzare. Viene cito solo 2 per l'Italia, così come per gli altri paesi: ridurre significativamente entro il 2020, cioè più o meno domani mattina, il numero di NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, che in Italia sono più di 2 milioni, oppure dimezzare il numero di poveri, che sono attualmente 4 milioni e 6 in termini assoluti. Ecco, questa è la concretezza di questi obiettivi. E il rapporto dell'ASVIS fa il punto della situazione su dove è l'Italia rispetto a questi obiettivi e formula anche delle proposte su come migliorare la situazione. E a questo proposito parliamo appunto dei punti di forza e degli ambiti in cui bisogna intervenire per collocare il nostro paese sul sentiero della sostenibilità, che poi è economica e sociale e anche ambientale. Beh, ci sono sono, da un punto di vista teorico in Italia, ottimi piani, per esempio per la difesa della biodiversità, per la qualità dei sistemi marini, ma sono scarsamente attuati. Pensiamo a tutte le leggi sulla parità di genere che, se attuate effettivamente, ci consentirebbero di soddisfare quegli obiettivi su cui ci siamo impegnati. E il problema è che poi non diamo attuazione a queste leggi, a questi piani, oppure non finanziamo le attività, per esempio, di accelerazione della transizione all'economia circolare, che consentirebbe non solo di ridurre lo spreco di beni, ma anche di avviare nuove attività. Proprio il Parlamento europeo ha dato il suo ok agli accordi di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico. Il Consiglio dei Ministri ha immediatamente approvato la legge che ora va in Parlamento per la ratifica. Bene, il punto è che, una volta ratificato, dobbiamo fare un piano, una strategia energetica, perché quelle che abbiamo adesso non sono compatibili con gli impegni che abbiamo preso a Parigi. Il tema della misurazione del benessere è fondamentale, e lei stesso, professor Giovannini, si è impegnato a lungo in prima persona, da vari anni, anche da presidente dell'Istat e ora da presidente dell'Alleanza, per cercare di far sì che questo indicatore quantomeno si affianchi all'indicatore principale, che continua a essere il PIL. Ma ci sono ancora resistenze, sembra di capire. Ci sono resistenze soprattutto culturali, perché fare riferimento a un unico indicatore, che se cresce sembra che tutto vada bene, oppure se diminuisce le cose vanno male, salvo poi variare dello 0,1 qualcosa, e sembra che appunto facciamo l'1% va tutto bene, se facciamo lo 0,9% invece va tutto male. Ecco, questo tipo di resistenza culturale ancora blocca la possibilità di pensare, come si dice, in termini integrati, in termini olistici, e questo riduce l'attenzione. Questo è anche dipendente dal fatto che alcuni dati, pensiamo a quelli ambientali, arrivano 2-3 anni dopo quelli economici, e questo provoca una distorsione dell'intero dibattito. Per fortuna l'Italia su questo è andata avanti con la riforma della legge di bilancio. Adesso ogni anno il governo dovrà fare una valutazione degli indicatori del BES, del benessere ecosostenibile, e quindi anche di questi indicatori di sviluppo sostenibile, e dovrà fare una valutazione dell'impatto delle politiche usando questi indicatori. Ecco, l'Italia è il primo paese G7 ad aver scelto questa strada, mi sembra positivo. Questa è una novità importante, professor Giovannini, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, perché con la legge di bilancio che è stata approvata da poco, appunto, ci sarà un capitolo a parte, e quindi in qualche modo il governo e il Parlamento dovranno essere chiamati a attivare delle politiche per far sì che, come dire, l'indicatore del BES, il benessere equo e sostenibile, abbia un seguito in termini di politiche. Ma secondo lei questo è un passaggio che ci sarà, oppure ci saranno ulteriori resistenze? Abituati a ragionare in termini di modelli economici, e quindi magari a fare delle simulazioni di varie politiche usando questi concetti. Bisogna invece andare a vedere se una certa politica ha effetti positivi, per esempio sull'economia, ma negativi sull'ambiente, che poi a lungo termine vuol dire anche costi insostenibili per l'economia. Vuol dire adottare un'ottica di medio e lungo termine e non di brevissimo termine, e questo è quello che la politica deve fare, con la P maiuscola, ed è per questo che l'ASVIS, che appunto riunisce più di 126 organizzazioni di tutta la società civile, sta cercando di presentare, e da questo punto di vista i media hanno un ruolo fondamentale per aiutare il paese a fare questo salto di qualità. Ecco, un salto di qualità che dovrà passare necessariamente, lo dicevamo poc'anzi, attraverso un processo che sarà anche culturale. Forse ci vorrà del tempo, ma qualcosa si sta muovendo anche grazie alla vostra iniziativa, professor Giovannini. Sì, io credo che si sta muovendo molto. In questi giorni ci sono state varie conferenze, e questo è un passaggio importante, perché questa agenda non riguarda solo il governo, ma riguarda anche le imprese, i singoli, ognuno di noi nel modo con cui consuma, ad esempio, può aiutare la sostenibilità non solo ambientale, ma anche quella sociale, oppure peggiorarla. Per questo appunto c'è bisogno del coinvolgimento di tutti. L'ultimo... Le imprese stanno facendo, soprattutto a livello internazionale, la differenza. In Italia abbiamo bisogno di più imprese che vadano in questa direzione. Il fatto che da fine anno ci sarà l'obbligo di rendicontazione non finanziaria di tutte le imprese grandi è già un passo avanti molto importante. Un'ultima domanda, professore Telegrafico. Ci sono dei modelli a livello mondiale cui potremmo riferirci in questo discorso, insomma, del BES? Beh, ci sono paesi, mi riferisco alla Germania, alla Francia, a anche altri paesi europei, in cui questo cambiamento di paradigma sta avvenendo e quindi possiamo prendere buoni spunti. L'Europa ha un ruolo importante. Ci aspettiamo per novembre una comunicazione da parte della Commissione europea su come l'Europa dovrà incorporare tutto questo nella revisione della strategia Europa 2020, e quindi quella sarà una importante presa d'atto, speriamo, di coraggio da parte dell'Europa per andare in questa direzione. Grazie professore, buona serata, grazie per essere stato con noi.